agitato e accarrapato, perché ho sognato, sì sì ho sognato, di essere nato super dotato. Questa mattina poi sono scappato con la gran fica. Cazzo duro!